perfetto notte estate. Eccoci qui, 18:32, 50 secondi. Buonasera ad Andrea Ferro, buonasera da Valeria Bernardi che mi assiste in regia. In redazione ci sono anche stasera Valentina Ternullo e Alessandro Schirano. Ma prima di fare sostanzialmente l'elenco di quello di cui ci occuperemo di qui alle 20:30, c'è la notizia: l'Aula del Senato ha autorizzato il processo all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Ci colleghiamo con Roma, Alessandro Arona, buonasera. Sì, buonasera Andrea, come dicevi tu è arrivato poco fa dal Senato il via libera al processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms dell'agosto di un anno fa. La maggioranza di governo ha prevalso per soli 8 voti, 149 a 141, ma ricordiamo che per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Palermo nei confronti di Salvini serviva la maggioranza assoluta di 160 voti, a cui il centrodestra era comunque molto distante, anche perché stamattina anche Matteo Renzi aveva annunciato il voto favorevole di Italia Viva, dopo alcuni giorni di incertezza ha annunciato il voto favorevole all'autorizzazione. Dunque ci sarà il processo a Matteo Salvini per il caso della nave spagnola Open Arms e l'accusa è di sequestro di persone e abuso d'ufficio per aver impedito per 19 giorni lo sbarco della nave con oltre 100 migranti a bordo. Adesso i tempi saranno lunghi ovviamente per il processo, ma il rischio più insidioso per Salvini in caso di condanna definitiva è la legge Severino, che gli impedirebbe di candidarsi in Parlamento alle prossime elezioni, quindi più che la condanna penale il rischio maggiore per lui sarebbe quello di una interdizione dai pubblici uffici e quindi un divieto di candidarsi a future elezioni. Grazie Alessandro Arona da Roma e riprendiamo il filo del nostro racconto serale. Iniziamo ad elencare gli argomenti dei quali ci occuperemo nel corso di queste nostre due ore. Parleremo di autostrade, parleremo dell'emergenza sanitaria. Purtroppo ci sono dati poco confortanti. Oggi, nelle ultime 24 ore, i casi di positività sono aumentati, più 386 contro i più 289 di ieri. Poi parleremo degli aggiornamenti sul vaccino, della sentenza di Corinaldo. Ricorderete, in provincia di Ancona, una donna e 5 ragazze morte un anno e mezzo fa in una discoteca in seguito alla calca scatenata da un gruppo di giovani armati di spray al peperoncino. Parleremo chiaramente della vicenda Open Arms, così come abbiamo aperto la nostra puntata di stasera, poi degli sviluppi dell'inchiesta di Milano sui camici e poi l'angolo dello sport stasera con la storia del capitano della Reggiana che a 26 anni prende la laurea e scappa. Basta pallone, meglio un master all'estero e continuare a studiare. E allora apriamo il nostro diario sulla pagina delle autostrade, facciamo rotta in Liguria. Qualcuno ironizzando mi ha detto: la Liguria è la terza isola d'Italia dopo Sicilia e Sardegna, nel senso che è difficile raggiungerla in auto, i viaggi sono incertissimi per quanto riguarda appunto i tempi di percorrenza, le autostrade attorno a Genova sono nel caos per i lavori di manutenzione, messa in sicurezza delle gallerie, lo ricordiamo da ormai un paio di mesi nei nostri programmi, nei nostri GR, interventi programmati a partire da gennaio, proseguiti in parte anche durante il lockdown, però poi il ministero ha detto che non erano state fatte bene le cose e alla fine di maggio ha ordinato di ricominciare praticamente da capo, quindi proprio nel momento della ripartenza dopo il lockdown, oltretutto alla vigilia della stagione estiva in un territorio ad alta vocazione turistica, territorio anche fondamentale sotto il profilo della logistica, pensiamo ai porti di Genova, Savona e La Spezia, quindi tunnel chiusi, tratti autostradali chiusi di notte con prosecuzione della chiusura anche al mattino, insomma tanta rabbia, proteste, danni pesanti per il territorio, mentre appunto la Liguria rimaneva paralizzata, è andato in scena uno scontro tutti contro tutti, Regione Liguria contro Ministero, botte e risposte tra Mitte e Autostrade, palleggi di responsabilità, accuse che rimbalzano da una parte all'altra, va anche ricordato che in Liguria tra 50 giorni si voterà e quindi anche questa è campagna elettorale. Nel frattempo siamo arrivati alla fine di luglio e nonostante varie promesse, secondo le quali nel corso di queste settimane gli interventi sarebbero terminati, beh, i lavori proseguono ancora e così inevitabilmente i disagi. E proprio sulle comunicazioni legate alle scadenze si è innescato l'ultimo scontro tra Ministero dei Trasporti e Autostrade per l'Italia. Il MIT ha inviato ad ASPI una lettera di contestazione dicendo che sostanzialmente i patti sui tempi non sono stati rispettati e ha invitato le categorie a fare la conta dei danni subiti. Proprio oggi a Roma c'è stata una riunione al Ministero. Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver aderito appunto al nostro invito. Allora, questa sembra una commedia, purtroppo c'è poco da ridere. Sostanzialmente le autostrade vengono praticamente desertificate dal lockdown, si potrebbe metterle in sesto e invece nel momento in cui c'è la ripartenza praticamente si ferma tutto. Ora, al di là delle responsabilità, oggettivamente sembra quasi incredibile, Traversi. Sì, sembra quasi incredibile, però più che tutto è iniziato con una tragedia, non dimentichiamocelo, quindi dalla caduta del Ponte Morandi e le sue vittime si è avviato tutto un processo di controlli che purtroppo, al di là del rimpallo di responsabilità, ha portato a capire benissimo che la manutenzione sulle nostre autostrade ligure, io dico nostre perché sono anche ligure. Lei è ligure, sì, lei è di Chiavari, quindi, se non sbaglio, no? Sì, sono di Chiavari, quindi parte in causa, un territorio che conosco benissimo, conosco galleria per galleria e posso testimoniare come in tutti questi anni ci siano stati interventi molto timidi per quanto riguarda la manutenzione che al limite è stata ordinaria. La caduta del Ponte Morandi ha portato ad analizzare tutta una serie di situazioni che sono iniziate in modo un po' più drastico dalla chiusura improvvisa di due viadotti fatti verso novembre, e quello è stato il primo passaggio già abbastanza grave, però poi il Ministero quindi si è concentrato nel far fare le verifiche statiche dei viadotti liguri, e poi il peggio doveva ancora arrivare perché quando gli ultimi giorni dell'anno nel viadotto, nella galleria Bertè, si sono staccati 2,5 tonnellate di volta che hanno sfiorato i veicoli, praticamente per fortuna non c'è stata una nuova tragedia, è andato a effettuarsi quello che era un controllo che da prima la società Autostrade si faceva in assoluta autonomia, quindi si verificava o lei stessa o faceva verificare a tecnici la bontà dello stato del manutentivo del sistema autostradale, e questa caduta ha portato in evidenza questa falla, perché pensate che questa galleria era poco meno della metà della pericolosità per quanto riguarda una possibilità di chiudere l'autostrada per situazioni di pericolo, e quindi questo ha evidenziato che quei controlli non sono stati tanto opportunamente portati avanti. Ecco, sì, però poi c'era questa grande occasione, ahimè, perché chiaramente definirla così lo si fa con una certa difficoltà, del lockdown. Qualcosa però non ha funzionato anche da parte del Ministero, no? Sì, no, allora non ha funzionato. Io vi ho detto di questa caduta della volta che è stata gli ultimi giorni dell'anno, quindi da gennaio si è innescato tutto questo nuovo processo, a marzo c'era in teoria davvero un'altra valorizzazione dei lavori, quella non è avvenuta proprio per il lockdown. Il Ministero ha preso con forza in mano la situazione con controlli, mandando proprio un tecnico. Il tecnico ha iniziato a lavorare a febbraio-marzo. Si sono fatti dei controlli che all'inizio sembravano insomma solo visivi e cose molto semplici, in realtà si è rivelato che poi era necessario intervenire, e adesso è facilissimo valutare la mole di questi interventi, perché sotto ogni galleria si vede che non è stato il problema solo di smontare, guardare le gallerie, e poteva sembrare questo un esercizio più formale, anche se ovviamente fare questo semplice lavoro era già una perdita di tempo che significa chiudere la galleria. In realtà è venuto fuori che i lavori sono stati molto importanti, lavori di fissaggio sopra la volta, sono stati fatti placcaggi con ferri che si vanno a inserire nella roccia, quindi questi qualunque utente può passare a... Ecco, mi perdoni se la interrompo, Traversi, però il cittadino, l'uomo del marciapiede o l'uomo dell'autostrada in questo caso ti dice: ma non potevano mettersi d'accordo prima? Mi perdoni. Allora, il sistema che è fallato l'ha evidenziato il crollo del ponte e tutte queste cose che sto raccontando. In effetti questi lavori dovevano essere fatti sicuramente nei 30 anni prima, con molta consolerzia, però con programmazione. Aver constatato nel mese di marzo avendo anche delle indagini molto intense anche dalla procura, non dimentichiamo anche questo, ha portato la società per autostrade, quindi il tecnico che il ministero ha mandato in questi controlli, a certificarli ad uno, e qua stiamo parlando dei mesi di marzo, quindi a lockdown già in pieno corso, e quindi andare a fare questi controlli ha purtroppo portato a dover intervenire in maniera massiccia. E negli ultimi due mesi i lavori non sono stati quasi solo a luglio, praticamente sono due mesi che stiamo lavorando alla Clemente, chiudendo pezzi di autostrada, chiudendoli in notturna, chiudendo caselli, un disagio incredibile che abbiamo vissuto come cittadini, però i tempi sono purtroppo stati questi per tutta questa serie di conseguenze che vi ho raccontato. Naturalmente non stiamo raccontando che è andato tutto bene, è un disastro che poteva coinvolgere anche le gallerie. Abbiamo preferito ovviamente la sicurezza davanti alle cose, e di questo ne rispondiamo ovviamente anche politicamente. Oltretutto adesso stiamo cercando anche di andare verso un indennizzo, perché la Liguria è stata paralizzata, ci sono categorie che hanno potuto lavorare ma lavorare male, lavorare in coda perdendo giornate, quindi come governo con il ministro abbiamo incontrato, come diceva lei in premessa, oggi il comitato, in modo da finizionalmente insomma di indicare delle modalità di misurazione del danno, quantificarle e anche dare un risarcimento. Quindi questo è stato quello che abbiamo fatto oggi incontrando i comitati. Grazie Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie, buonasera. Chiamo Enrico Valeri, direttore gestione rete di ASPI. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io la attendo un attimino prima di farla parlare, perché abbiamo un attimo uno spazio dalla regia e poi torniamo per approfondire e soprattutto per capire quando questi benedetti lavori finiranno. Effetto notte estate. Allora, Enrico Valeri, direttore gestione rete di ASPI, ha sentito quello che ha detto il sottosegretario Traversi? Un cortocircuito è stato, in sostanza? Ma guardi, intanto ho sentito e anche apprezzato che, al di là delle polemiche che sono state enfatizzate, che in realtà dal punto di vista fattuale non ci sono state, perché l'obiettivo nostro del Ministero è stato comune dall'inizio di questa vicenda, e che si sia un po' posto l'accento sulle cose fatte piuttosto che sulle polemiche o sulle incomprensioni rispetto a termini, scadenze o modifiche di programma, perché quello che sta nei fatti, al di là dei disagi innegabili che la Liguria ha subito in questi mesi, è che dall'inizio dell'anno, da quando noi abbiamo iniziato a proporre inizialmente al Ministero un protocollo completamente innovativo di verifica delle gallerie, che non aveva precedenti in Italia, e attraverso quel protocollo abbiamo iniziato a verificare i tunnel, noi abbiamo fatto ad oggi, ed è soltanto una prima parte, cioè quella che noi completeremo con la prima settimana di agosto, non sarà la sistemazione definitiva dei tunnel, sarà una prima fase provvisoria che questo protocollo prevede, che avrà visto circa 10.000 interventi realizzati sulle 285 gallerie in Liguria. Quindi stiamo parlando di un impegno in risorse, in macchine, in uomini, poi voglio tornare un attimo su quello che lei accennava sul periodo del lockdown, che non ha visto alcun tipo di interruzione dell'attività per quanto riguarda la società Autostrade. Ma nessuno l'ha detto, nessuno ha detto questo. No, perfetto. Però, e poi nei prossimi anni questa prima fase sarà accompagnata con un totale adeguamento dei fornici, quindi per restituire a queste infrastrutture non soltanto che era la strategia della manutenzione del passato, ma non soltanto della società Autostrade. Adesso con questo non voglio fare precisazioni o fare commenti sul come o quanto si facesse bene prima. Indubbiamente stiamo parlando di due metodi di approccio completamente diversi, e quello che ci fa piacere è che oggi il protocollo che noi abbiamo proposto, che riteniamo innovativo, molto profondo, molto accurato, molto rigoroso di controllo delle gallerie, sia stato prima eletto come standard nazionale dal MIT ed oggi sia in discussione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per farne uno standard e una nuova normativa di riferimento. Quindi questo tipo di approccio consentirà, nell'arco dei prossimi 5-10 anni, di avere completamente rinnovato dal punto di vista della qualità strutturale il patrimonio delle gallerie, con non solo dei benefici evidenti in termini di sicurezza, ma di sicurezza profonda, non di sicurezza semplicemente superficiale di quelli che potevano essere i problemi dei rivestimenti delle gallerie, ma anche un allungamento della vita utile di questi beni, quindi con un rinnovo molto profondo e anche molto oneroso dal punto di vista naturalmente e finanziario, ma anche di cantieri. Quindi purtroppo quello che possiamo dire, continuando a scusarci, che questo tipo di iniziative non si concluderanno in breve tempo. La Liguria è... A questo proposito, tutti però ci chiediamo, visto che comunque dei termini sono delle scadenze, sono circolate in queste settimane, finiscono il 12, il 15, il 28, primo agosto, qualche problema di comunicazione tra Ministero e Autostrade forse c'è stato. Ma guardi, quando si sente parlare di scadenza, in realtà noi abbiamo sempre comunicato spontaneamente dei continui aggiornamenti delle attività che noi stavamo svolgendo al Ministero, sapendo che avevamo, finché non abbiamo completato le ispezioni, avevamo delle incognite, perché lei scopre se c'è un lavoro da fare quando ha completato un'ispezione. Finché ha ancora delle ispezioni da completare può fare delle ipotesi, ma sono ipotesi, e chi vive tecnicamente nel quotidiano questo tipo di situazione si rende perfettamente conto che non... No, certo, è chiaro, comprendo l'aspetto tecnico, la valutazione, che chiaramente sfugge poi a qualsiasi cronoprogramma, visto che chiaramente sono delle ispezioni e poi sulla base di quello che si rileva inevitabilmente ci si regola, però non è innegabile che in queste settimane sono state poste delle scadenze. A proposito delle scadenze, un flash, perché stiamo andando un po' lunghi, c'è una buona notizia che riguarda la 14, no? Sì, perché dal 31 avremo le due corsie per direzione garantite, quindi per tutto il periodo di... Cioè, 31 significa domani. Da domani, esatto. Questa è una buona notizia, perché l'altro fronte caldo di queste settimane era appunto la 14, l'Adriatica, non una situazione proprio così disastrosa come Genova, però indubbiamente una situazione molto molto complessa. Grazie Enrico Valeri, direttore gestione rete di ASPI, grazie per essere intervenuto effetto notte estate. Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, buonasera. Buonasera. Allora, da Buoni Liguri avete contabilizzato, diciamo così, i danni subiti dal territorio oggi? No, un incontro col ministro nel quale abbiamo individuato un percorso che nel brevissimo termine, e quindi dandoci già una scadenza che sarà quella del 2 settembre, dovrà portare a quella che sarà appunto la conta dei danni e anche individuare i criteri per poter poi provvedere ai risarcimenti degli indennizzi a chi legittimamente ne avrà diritto. Ecco, ma è possibile fare una stima molto molto approssimativa? Mi rendo conto che è praticamente così improbabile dare dei dati molto precisi, ma giusto, guarda, per rendere, certo, un ordine di grandezza. Intanto mi lasci dire una cosa, che è la prima volta che oggi accade, se non altro c'è stata una chiara, come dire, consapevolezza dal Ministero di prendere atto che ci sono stati dei disagi, dei danni, e che andranno indennizzati. Su quello che noi abbiamo sempre detto che è peggio del Ponte Morandi, la dicono un po' tutte le associazioni che si sono riunite nel comitato, io posso solo dirle che per il comitato, per i danni a seguito del Ponte Morandi, per allora c'erano state richieste attraverso lo strumento poi del decreto Salva Genova, attraverso una raccolta dati presso la Camera di Commercio, si è arrivata una richiesta danni di 500 milioni di euro, tra danni diretti e indiretti. Questo è già, come dire, un primo numero qua, e sappiate che allora il turismo era meno impattato di quanto lo sia adesso. Quindi, certo. Sono già numeri importanti. Certo, grazie Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova. Turismo, Angelo Berlangeri, presidente dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci contabilizza anche in termini, diciamo così, emotivi le conseguenze di quello che è accaduto in queste settimane, in un momento così importante per la ripartenza dopo il lockdown? Assolutamente sì, noi abbiamo subito un danno purtroppo incredibile, perché come diceva lei, dopo il lockdown, essendo una destinazione di prossimità, poi il lockdown apporta soggiorni ovviamente più brevi e magari ripetuti per ovvi motivi, sia per un motivo di sicurezza che per motivi economici, e noi speravamo, insomma, questo luglio di bloccare l'emorragia, perché abbiamo perso tutto da gennaio a giugno. Abbiamo cominciato bene, alla fine di giugno si è bloccato tutto, abbiamo perso tutti i ponti e tutti i fine settimana del mese di luglio, quindi siamo rimasti in una situazione di grande difficoltà. Il danno quantitativo, come diceva il nostro presidente di Confindustria Genova, non è facile, ma più o meno attorno al 500.000 di euro il turismo l'ha perso. Per quanto riguarda l'intero territorio, diciamo così, interprovinciale. Sì, 500 milioni di euro. E ora come vanno le cose, Berlangeri, in generale? In generale, insomma, non vanno benissimo, proprio per questo motivo, perché oltre a soffrire la ripartenza lenta del Covid, ci è capitata questa tegola tra capo e collo. Un po' di movimento è migliorato nell'ultimo periodo, perché cominciano ad arrivare le persone che si fermano per più lungo tempo e quindi possono sopportare, si fa per dire, però, scusandoci con loro, il disagio che gli viene procurato da raggiungerci e dover tornare a casa, ma in tutto il periodo di luglio, quando le persone facevano soggiorni più brevi, insomma 48 ore di soggiorno e perderne 10 in autostrada, lei, tutti quanti si rendono conto che non è sostenibile. Invece che si ferma una settimana, insomma, con molta pazienza e anche arrabbiandosi parecchio, riesce maggiormente a tollerarlo. Quindi un pochino meglio le cose dalla fine di luglio ad agosto vanno. Ma bene, allora lasciamoci con queste note positive, anche perché in queste cronache di questo periodo inevitabilmente c'è molta ansia, c'è talvolta anche un po' di negatività, e quando arriva così qualche barlume di speranza lo valorizziamo. Grazie Angelo Berlangeri, presidente dell'Unione Provinciale Albergatori Savona, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, buonasera. E dalla Liguria voliamo idealmente in Sicilia, perché se in Liguria c'è il rischio di rimanere fermi e quindi di non superare assolutamente alcun limite di velocità, e ci mancherebbe, in Sicilia i limiti di velocità c'è chi li supera, e li supera per fare delle gare. Pensate, gare clandestine sulla Catania-Palermo. Marcello Scalia, commissario della Polizia di Stato in servizio alla Polstrada di Catania, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, abbiamo visto qualche video, gente che sfrecciava 260 km orari, o sono io che ho guardato male? No, ho guardato benissimo, e tra l'altro le aggiungo che queste sono stime assolutamente prudenziali, perché abbiamo... Cioè andavano ancora più forte? C'è da pensare proprio di sì. Cioè Formula 1 praticamente, io non sono ora pratico, però più o meno. Praticamente siamo su quei livelli di velocità, con la sostanziale differenza che le corsie autostradali sono strutturate ovviamente per dei limiti di velocità che sono ben al di sotto di quella soglia. Quindi un indice di estrema pericolosità, non solo nella condotta in sé, non solo per la presenza di questi avventati spettatori che erano lì a poche decine di centimetri dal cioè praticamente c'era il pubblico mentre questi sfrecciavano. Abbiamo valutato circa una cinquantina di persone, abbiamo identificato mediante il rilevamento delle targhe non solo le due auto gareggianti, ma anche circa altre 12 autovetture di spettatori. L'utilizzo delle virgolette è d'obbligo, spettatori che occupavano la corsia di emergenza, quindi restringendo ancora di più gli spazi disponibili, e alla fine abbiamo valutato quindi una cinquantina di persone. Ovviamente anche nei confronti di questi presenti abbiamo in proposito di procedere alle contestazioni per le soste irregolari nella corsia d'emergenza, senza appunto essere dettate da tali motivi di necessità. Ho letto che sì, brevemente, perché ormai siamo in conclusione di questo spazio, ho letto che si radunavano in punti particolari e poi partivano. Sì, questo è stato accertato nel corso delle indagini, perché sono stati effettuati dei servizi di appostamento e pedinamento proprio in due diversi siti. Uno all'interno di un centro commerciale ubicato a ridosso della tangenziale, e uno nella frazione Lineri del comune di Mister Bianco, che comunque fa parte dell'Interland catanese, dinanzi la piscina comunale del quartiere Nesima Superiore. Ora speriamo che ora, voglio dire, il vostro intervento abbia un po' calmato gli animi, perché evidentemente la situazione costituiva un grave rischio per l'incolumità di tutti gli altri. Grazie a Marcello Scalia, commissario della Polizia di Stato in servizio alla Polstrada di Catania. Alle 18:57:40 termina la prima parte di Effetto Notte Estate, spazio al GR delle 19, condotto stasera da Maria Piera Ceci. Radio 24 vi accompagna per tutta l'estate con alcune delle sue trasmissioni consolidate e qualche novità. Come sempre, tanta informazione e approfondimenti sull'attualità per essere sempre aggiornati su quello che accade in Italia e nel mondo. Ma spazio anche all'intrattenimento, alla narrazione di qualità e all'ironia. Per conoscere la programmazione speciale di agosto, potete consultare il sito radio24.it, dove potete riascoltare i nostri programmi in podcast e scoprire i podcast originali. Radio 24 è sempre con voi, anche in estate. L'Italia online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia online. L'e-commerce era tabù, ma se lo fai vendi di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. Tigro, ci meritiamo una bella vacanza quest'anno, vero? Sì, andiamo in una bella località in montagna, fresca, vicina e tutta italiana. Italiana come Monge. I suoi croccantini hanno sempre le fonti proteiche animali come primo ingrediente. Sono senza coloranti e conservanti aggiunti e studiati per le diverse esigenze nutrizionali del vostro gatto. E poi i croccantini Monge Natural Super Premium sono made in Italy e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro, è sempre con te. Effetto notte estate. 19:14, Valeria Bernardi in regia, in redazione ci sono Valentina Ternullo e Alessandro Schirano, io sono Andrea Ferro e riprendo a leggere il diario della giornata di oggi. Inevitabilmente parliamo anche stasera dell'emergenza coronavirus. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione che i dati oggi non sono granché confortanti, approfondiremo poi la questione nazionale. Ora diamo un'occhiata a quello che succede nel mondo. Negli Stati Uniti nella giornata di ieri 1400 morti, quasi una vittima al minuto, pensate. È stata la peggiore giornata da oltre 2 mesi, con Florida, California, North Carolina gli stati più colpiti e che hanno fatto registrare un record sul fronte dei decessi e dei casi di contagio. Il coronavirus corre in America Latina, quasi 110.000 morti tra Brasile e Perù. Nel paese di Bolsonaro i decessi sono più di 90.000, l'escalation mantiene un ritmo drammatico con un aumento di circa 10.000 ogni 10 giorni. La barriera di 60.000 è stata superata il 1 luglio, quella di 70.000 il 10 luglio e quella di 80.000 il 20 luglio. Siamo collegati proprio con una collega che ci parla da San Paolo, Fernanda Massarotto, giornalista di O Globo. Buonasera. Buonasera Andrea. Allora Fernanda, io ho letto un bollettino drammatico, ci aggiorni gli ultimi dati, le ultime sensazioni che appunto arrivano dal Brasile, in generale dal Sud America? Guarda, abbiamo superato 90.000 decessi ieri, 1.554 decessi e ovviamente la situazione è drammatica in un paese che io ripeto sempre, è un paese con due realtà, dove ovviamente trovi le persone che stanno molto bene, che si possono andare a un ospedale privato, tra l'altro abbiamo tantissimi ospedali privati, in alcune città più ospedali privati che pubblici, e ovviamente la popolazione che è la grande maggioranza che purtroppo deve andare agli ospedali pubblici che sono ovviamente al collasso, quindi questa è la realtà di questo paese che negli ultimi 20 anni ha preferito, io dico sempre, ospitare un mondiale di calcio e delle Olimpiadi e non investire in salute. Quindi le conseguenze si vedono anche durante una pandemia. Ecco, leggo che le prescrizioni di clorochina sono aumentate dell'863% dopo che questo farmaco è stato raccomandato da Bolsonaro. Esatto, esatto. E adesso ci sono anche delle città dove stanno anche distribuendo. Ovviamente si questiona molto se il farmaco fa effetto o no. Quindi, cioè, per esempio, il segretario della salute dello Stato di San Paolo, che è stato positivo, no? È risultato positivo al Covid, lui poi ha ammesso di aver usato la clorochina, però poi ci sono ovviamente gli scienziati, anche i medici che dicono che non si ha proprio una certezza se il farmaco fa questo effetto o no, se aiuta o no. Quindi siamo sempre poi un presidente che va in rete nazionale e dice che la clorochina può salvare qualsiasi persona, ovviamente tu puoi capire cosa è successo, quindi la gente va, chiede al medico, però ovviamente lì c'è anche il medico che dice no, sì, si tratta anche di vedere come sta la persona, è tutto, cioè viviamo, come dico sempre, viviamo in un paese dove tutto si questiona, tutto si chiede il perché. Beh, certo, in parte anche inevitabile. E mediaticamente come viene raccontata questa emergenza? Guarda, questa emergenza viene raccontata con un tono molto drammatico. E alla fine poi tutti i giorni si raccontano dei decessi, dei casi, e purtroppo è un paese che ovviamente è quello che vediamo, quindi 90.000 decessi, tantissimo. Su numeri relativi siamo anche non a livelli di Italia e Francia, però è un paese dove, e io mi ripeto sempre, è un paese dove l'emergenza sanitaria esiste già da anni, quindi qui si può morire anche di una... Per capire, i posti in terapia intensiva, lasciando perdere chiaramente le cliniche o comunque le strutture a pagamento, sono assolutamente insufficienti, chiaramente rispetto a questa emergenza, ma di base. Di base, perché c'è gente che arriva e muore nei corridoi, quindi ovviamente non eravamo a un livello così. Però sugli ospedali, negli ospedali pubblici c'è un'emergenza sanitaria, è ovvio e molto chiaro. Perché più in Brasile che in altri paesi sudamericani? C'è una spiegazione? Una spiegazione, perché non si è mai investito in salute in questo paese. Quello che io dico sempre... No, intendo la diffusione della pandemia, ha colpito più il Brasile rispetto, che ne so, all'Argentina. Guarda, questo io posso mettere un puntino dicendo che secondo me c'era il problema carnevale, si vedeva già il problema nei paesi in Europa e anche arrivando negli Stati Uniti, e qui i governatori hanno voluto liberare il carnevale. Il carnevale, come sappiamo tutti noi, sono delle persone insieme, quindi secondo me il problema è stato il carnevale a febbraio. Ecco, scusami, poi, quanti abitanti fa il Brasile? Ce lo chiede un ascoltatore. Anche sono, per... 27 stati. Complessivamente? 27. Sì, no, quanti abitanti? Sono 200 milioni, quindi sono tanti. Ecco, quindi abbiamo anche soddisfatto la legittima curiosità di un ascoltatore che chiedeva chiaramente di tarare questi numeri sulla popolazione. Io ti ringrazio Fernanda Massarotto, giornalista di O Globo, grazie per essere intervenuta stasera a Effetto Notestate, e chiaramente, come dico anche agli altri colleghi che ci aggiornano dal resto del mondo, torneremo con te, perché chiaramente avremo necessità di aggiornare la situazione in Brasile. Grazie. Grazie, è stato un piacere, grazie. E allora la speranza chiaramente è affidata al vaccino, e sul vaccino continuano a circolare tutti i giorni notizie, qualche volta confortanti, della serie ci stiamo avvicinando al momento in cui potrà essere somministrate, altre volte c'è chi invece frena e dice ancora presto, stiamo attenti. Sergio Abrignani, ordinario di patologia generale all'Università di Milano e direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare Romeo ed Enrica Ivernizzi, buonasera. Eccomi, buonasera. Buonasera, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, io ho letto un suo contributo oggi sul Corriere della Sera, sostanzialmente 160 sono le aziende che lavorano sul vaccino, ma diciamo così 4 sono arrivate nella fase finale, forse decisiva, cioè la fase clinica di efficacia, è così? Sì, è così, sono 4 le aziende che sono quelle più avanti. Comunque tenga presente che è iniziato tutto in gennaio, quindi è 7 mesi che è iniziata la corsa per un vaccino contro il SARS-CoV-2, e già essere con 4 studi di fase 3, quindi di efficacia, in 7 mesi è un risultato enorme per la scienza, per tutti gli investimenti che sono stati fatti, quindi veramente si è corso. Ed è proprio in questi giorni hanno iniziato l'inizio hanno annunciato l'inizio della fase 3 di efficacia a queste quattro aziende, con quattro vaccini abbastanza diversi, due tipi di vaccini, diciamo. E quindi significa che arriveremo al vaccino, è chiaro che è una domanda molto impegnativa, o meglio la sua è una risposta molto impegnativa, la mia è una domanda banale, però quando potremmo così stimare il momento giusto? Tutti i tempi che fino all'anno scorso erano dati per sviluppare un vaccino sono saltati con l'emergenza, l'enorme sforzo economico e di risorse che è stato posto su questo progetto, cioè da parte di tutti, governi, aziende, enti filantropici, quindi non si dice bene il tempo esatto. Secondo me è ragionevole assumere che entro la fine del prossimo anno ci possa essere un vaccino. Poi se va bene magari anche qualche mese prima, ma insomma parliamo di questo, perché una fase di efficacia che inizia in questi giorni, minimo 5-6 mesi ci vorranno. Ecco, come si dimostra poi l'efficacia? Come si dimostra l'efficacia di un vaccino? Il modo più tradizionale è di prendere soggetti a rischio, quindi con un rischio più elevato di infezione, e questo è uno dei problemi negli studi con SARS-CoV-2, perché oggi non ci sono più, come erano a gennaio o febbraio, i soggetti che lavorano nel mondo sanitario a rischio. Comunque si prendono delle persone sane, cioè dei volontari, in questo caso visto che non c'è un'alta incidenza di infezione in questo momento nel mondo occidentale, serviranno tra i 20.000 e i 50.000 soggetti che vengono vaccinati e altri 20-40.000 vengono iniettati con un controllo che è soltanto un non vaccino, diciamo un controllo proprio. E poi si vede quante persone si sono infettate fra i vaccinati e fra i non vaccinati. Questo in sintesi è il modo in cui si studia l'efficacia. Ecco, prima lei parlava che ci sono delle differenze tra questi quattro finalisti, definiamoli così. Cosa vuol dire differenze? Le differenze del modo in cui si cerca di indurre la risposta immunitaria nei soggetti vaccinati. Ora devo dire delle tecnicalità, però in un caso sono vaccini basati su dell'acido nucleico, dell'RNA, in tre casi sono invece vaccini che si basano su vettori virali difettivi di adenovirus. Fondamentalmente tutti i tipi di vaccini mirano ad indurre una risposta immunitaria, anticorpi neutralizzanti in particolare, contro la parte esterna del virus, la spike, la famigerata spike, che è quella che media l'attaccamento del virus alle cellule umane, l'ingresso del virus nelle cellule umane, e quindi inducendo anticorpi che neutralizzano l'attaccamento della spike alle cellule umane si blocca l'infezione. Ecco, uno di questi si può fare in diversi modi, e quindi questi usano diverse tecnicalità per indurre. Ecco, leggo che uno di questi vaccini è efficace sui macachi, cosa vuol dire? Vuol dire che prima di andare nell'uomo si cerca sempre di avere delle indicazioni di efficacia negli animali, in questo caso gli animali che si infettano più vicini a noi, che si possono infettare con SARS-CoV-2, sono i macachi, che sono dei piccoli primati, cioè delle piccole scimmie, e si è visto che, perché nel caso delle scimmie si può fare un esperimento che l'uomo è più difficile da fare per ovvi motivi, che è di vaccinarli e poi infettarli col virus e vedere quanti dei vaccinati non prendono l'infezione o non fanno la malattia. Questo è stato fatto col vaccino di un'azienda in particolare, quella che usa il vaccino RNA, si è visto che su piccoli numeri, una decina di animali, di macachi, che sono stati vaccinati con questo vaccino, quando poi sono stati infettati con SARS-CoV-2, in 48 ore non c'era più virus, quindi hanno sterilizzato l'infezione. In un altro caso, invece di un altro vaccino, quello con vettori virali, c'è stata l'infezione, ma la malattia è stata molto blanda, perché i vaccini possono proteggere dall'infezione e in quel caso è implicito il fatto che proteggano anche dalla malattia, oppure permettono l'infezione ma inducono una malattia molto, molto blanda, non grave. Ecco, in Russia ho letto sul Messaggero che dicono di essere pronti già dal 10 agosto, ora io non so fino a che punto questa notizia corrisponda al vero, non metto in dubbio chiaramente l'attendibilità dei colleghi, ma evidentemente ho qualche dubbio sul, diciamo così, sulla genesi di questa notizia. Al di là della questione che ho tirato in ballo, c'è il rischio che la corsa contro il tempo possa così pregiudicare la sicurezza, è quello che un po' temono anche, stiamo ricevendo anche qualche messaggio in questo senso, un po' le persone della serie ora hanno, magari diventa un business, per fare questo business poi succede il patatrac. Ma no, questo assolutamente no, perché i vaccini vengono immessi sul mercato, vengono dati agli esseri umani in modo regolare quando le agenzie regolatorie, che sono le agenzie nazionali o europee o degli Stati Uniti, che hanno il compito di valutare l'efficacia e la sicurezza di un vaccino, danno l'ok, e questo è un processo molto rigoroso, tant'è che la gente muore di vaccinazione. No, chiaramente in questo tempo così confuso, così incerto, così emotivamente particolare, il complottismo si affaccia sempre anche in queste situazioni. Grazie. Grazie a Sergio Abrignani, ordinario di patologia generale all'Università di Milano e direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare Romeo ed Enrica Invernizzi. Grazie. A lei grazie. La borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto notte estate. 19.32, dicevamo, dei dati di oggi sui contagi che sono, diciamo, preoccupanti, perché non vogliamo così generare situazioni di allarme, ma indubbiamente fanno riflettere. Sono, lo ripeto, 386 in più i contagiati, erano 289, quindi sono un centinaio in più le vittime, questo è un dato un po' più confortante, sono 3, ieri erano state 6, i tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5.000 in più rispetto a ieri. Alla luce dei dati di oggi c'è un'agenzia che riferisce della preoccupazione espressa dal Comitato Tecnico Scientifico alla luce appunto di quello che sta avvenendo. Si chiarisce che le cose in qualche modo sono sotto controllo, che i focolai non, in questo momento non dimostrano situazioni di criticità, però il trend dei contagi è in crescita. Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, cosa mi dice dopo questo bollettino che, come dicevo, non va certamente drammatizzato, però qualche riflessione la pone? Questo bollettino conferma una cosa che noi sappiamo e abbiamo sempre detto, peraltro, cioè che il virus è ancora molto presente, attivo, che bisogna quindi mantenere comportamenti davvero virtuosi e che bisogna seguire le regole, perché fino a quando non avremo un vaccino e quindi non potremo davvero dire che è vinta la battaglia, noi non possiamo ovviamente abbassare la guardia. Non mi spaventerei di piccoli incrementi che spesso sono legati anche all'incremento del numero di tamponi, però certamente io, per esempio, ogni volta che posso invito le persone anche a scaricare le Immuni, perché sapere ovviamente di essere entrato in contatto con contagiati è una cosa utile. E ci sono a questo proposito dei dati aggiornati su quanti hanno scaricato le Immuni, visto che diciamo fino a qualche tempo fa il risultato non era stato granché. Poco di più di 4 milioni, ma potrei non essere aggiornata, quindi preferisco non darlo. Certamente è l'esito di campagne contro le Immuni, di una sicuramente anche insufficiente comunicazione, ma avere lavorato contro le Immuni anche solo per fini politici in qualche caso si è rivelato realmente una cosa sbagliata, dannosa. Fabrizio Pregliasco, virologo, buonasera. Buonasera. Cosa mi dice di questi dati? Concordo assolutamente con il sottosegretario Zampa, perché siamo in una situazione attesa di circolazione del virus a bassi livelli, però con focolai che si susseguono. Abbiamo una situazione pesante in territori, in nazioni anche a due passi da noi, e quindi i casi importati, le situazioni di rischio legate ad alcune attività lavorative, a volte dei focolai legati condizioni sociali un po' disattente, disorganizzate, in qualche modo non, come dire, non ben diciamo a conoscenza addirittura in qualche caso dei rischi reali. E io credo che davvero cioè, da una parte vedo l'aspetto positivo, cioè siamo in grado di individuare questi casi che spesso sono asintomatici, sono nei giovani, che anch'essi sono colpiti e che quindi comunque devono tener conto di questa possibilità, e quindi vedo ancora l'aspetto, diciamo, del bicchiere mezzo pieno, la capacità ad oggi di individuare i casi, di individuare i contatti stretti, però ci vuole una collaborazione da parte dei cittadini, e quindi davvero i comportamenti virtuosi che noi abbiamo ben realizzato durante il lockdown dobbiamo continuare ad attuare per avere una estate serena e sperabilmente dover considerare la seconda ondata l'opzione, diciamo, peggiore, l'ipotesi su cui lavorare per far sì che non ci sia, e quindi poter continuare al meglio, appunto finché non ci sarà il vaccino, a convivere con la presenza di questo virus. Ricordo agli ascoltatori il numero per intervenire, chiaramente verde, 800 24 0024 per SMS e WhatsApp, 349 238 6666. Sandra Zampa, lo stato di emergenza prorogato è stato alla fine un compromesso? Lei l'avrebbe portato fino al 31 dicembre? Ma io mi sono spesso domandata, anzi è una domanda retorica la mia, cioè se noi all'inizio di tutta questa tragica vicenda avessimo chiesto lo stato di emergenza fino a dicembre, credo che non avrebbe scandalizzato assolutamente nessuno. Naturalmente, salvo dire che in caso ce l'avessero permesso la situazione, ovviamente sì. Interrompeva lo stato di emergenza, quindi l'avrei anche prorogato. Mi rendo però conto che diciamo ha avuto un impatto anche perché è uscito in maniera scorretta la notizia, diciamo, cioè, che è stato un po' un compromesso politico. Ad un certo punto il ministro ha detto fino a ottobre. A ottobre noi sappiamo qual è l'appuntamento che ci ha attende, vorrei essere chiara su questo punto. Noi ad ottobre avremo aperto le scuole 15 giorni e quindi saremo in grado di fare un bilancio di quello che è accaduto. Noi attendiamo questo appuntamento con la riapertura delle scuole con molta, diciamo, attenzione, usiamo un termine neutrale. Però confermiamo che le scuole riaprono. Esattamente, le scuole il 14 riapriranno. Quindi noi dobbiamo misurare per almeno 2 settimane l'impatto della riapertura scolastica. Quindi a ottobre ci servirà a capire se l'impatto è stato, diciamo, continua a permetterci una convivenza assolutamente, diciamo, tranquilla come adesso. Quello che ha detto il dottor Pregliasco, che saluto con amicizia, quello che ha detto il dottor Pregliasco, cioè che noi siamo in grado di individuare i focolai, che sappiamo come prendere subito questa malattia, cioè le condizioni sono molto diverse, non solo i numeri sono infinitamente più contenuti, infinitamente contenuti i numeri, ma soprattutto noi abbiamo adesso molto chiare quali sono i passi che dobbiamo compiere, quindi tutto va a una grande velocità. Naturalmente però la riapertura delle scuole, l'abbiamo sempre detto, questa è la ragione per cui le scuole non hanno aperto. E guardi, mi colpisce che soltanto nel nostro paese sia fatta così tanta polemica, perché in realtà io ricevo molta, diciamo, dei documenti che circolano nel comitato tecnico scientifico e anche media, cioè rapporti che escono, articoli. È così dappertutto, cioè la discussione sulla scuola e la chiusura, la riapertura, poi si apre, poi però si deve chiudere, cioè è un problema vero, ma non tanto per i numeri degli studenti o se stanno seduti in un banco da lontani. Il problema è tutto quello che gira intorno a questo mondo, le famiglie che si muovono, le metropolitane. Gli spostamenti certo. sarà indubbiamente uno dei nodi più certo, critici. Quelli che accompagnano i bambini. A questo proposito, scusi se la interrompo, vorrei richiamare in causa il professor Pregliasco. Ecco, quando la vita delle città, come ci auguriamo, tornerà alla normalità, mai come in questo tempo storico inseguiamo la normalità. Ecco, quando ciò avverrà, ci sarà un problema non da poco nella gestione dei trasporti. Già ora continuano ad arrivare in redazione foto che documentano che il distanziamento è assolutamente un concetto virtuale, foto scattate sui treni, sugli autobus. Questo potrebbe essere un problema. Beh, assolutamente, quello che preoccupa dopo il giustissimo appuntamento, diciamo, di rischio che sottolineava la segretaria, ci sarà poi anche l'autunno con la stagione influenzale, perché la seconda ondata è un'ipotesi, appunto un'ipotesi di lavoro su cui diciamo organizzarci, ma la stagione influenzale come ogni anno arriverà, quindi davvero io credo che sarà determinante rialzare il livello di attenzione di tutti. Io credo che si possa fare, perché rimango ancora ottimista, ma prudente, e io credo che si possa essere serini senza in qualche modo eccedere in un tana liberi tutti, che è un po' quello che si sta percependo in una quota rilevante di concittadini. Io credo che in effetti il problema trasporti metropolitane, in particolare nei grandi centri, sarà un po' cruciale rispetto a un'organizzazione del lavoro, a modalità che permettano oggettivamente una quota di distanziamento sociale che sia ragionevole, proprio perché ogni contatto è un rischio, va vissuto senza stress, senza ipocondria, ma soprattutto senza disattenzione. Ecco, sottosegretario Zampa, ci scrivono in tanti: il virus importato, l'occhio rivolto ai migranti. Questo sta scatenando tanti messaggi sulle nostre chat. Sotto questo profilo c'è preoccupazione da parte del governo? Stiamo governando la situazione come va governata questa situazione. Intanto non si capisce cosa vuol dire. Sono slogan che vengono pronunciati giusto per seminare anche quel tantino di odio che serve in situazioni, perché in realtà il virus non l'ha importato proprio nessuno. Sono numeri assolutamente controllabili, i migranti vengono tutti controllati. In queste ore, proprio dal mio ufficio, tra l'altro, nel senso che su mio impulso usciranno linee guida che prevedono un controllo molto, diciamo, sistematico, anzi quando è sistematico non c'è bisogno di molto, un controllo sistematico dei migranti, di chi sbarca. C'è un protocollo che dovrà essere applicato negli hotspot, allo sbarco? Agli sbarchi, esatto, esatto. E sta per essere diffuso, diciamo, in queste, sì, in queste ore? Sì, in realtà il Ministero dell'Interno sta già facendo più o meno quello che peraltro noi abbiamo semplicemente codificato. Riguarda però anche i tanti fragili, quindi non solo i migranti, tutte le situazioni di estremo disagio e di emarginazione. Noi non abbiamo soltanto i... Ecco, l'abbiamo persa Zampa Pregliasco. Sotto il profilo appunto dei contagi importati, visto che in Germania le cose non vanno granché, peggio ancora in Spagna, evidentemente ci vuole molta attenzione al di là della questione migranti in generale, perché viene dall'estero. I nostri controlli sono sufficienti, aeroporti, stazioni? Andrebbero sicuramente per quanto possibile incrementati. Io credo che davvero la quota maggiore di possibilità di arrivo del virus è attraverso un volo in business class piuttosto che attraverso i migranti, proprio perché davvero la velocità di diffusione è legata a situazioni di territori intorno a noi. Germania, Francia, i Balcani sono in un momento di rischio, stanno vivendo quella parte diciamo di ondata che noi, almeno come prima ondata, come speriamo unica ondata, la stiamo in qualche modo lasciando alle spalle, quindi sono film che vanno, no, in progressione. Certo, Pregliasco, mi perdoni se la interrompo, abbiamo un ascoltatore che ha una testimonianza un po' particolare. Antonio da Bergamo, buonasera. Antonio. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, vabbè, buonasera. Vabbè, ancora noi siamo effetto notte estate, d'altronde è un po' confuso il tempo, diciamo, in questo momento qua. Quindi lei scrive che ha fatto un test sierologico ed è cosa è venuto fuori? Sì, allora, sotto consiglio di un amico medico, che gli disse: prova a farti serologico IgG e vedi se sei avuto contatti col virus. Io questo inverno proprio ebbi un episodio stranissimo che non mi è mai capitato, di tosse continua, abito in provincia di Bergamo, e proprio una tosse insistente, mi sono svegliato, ricordo, di notte tutto sudato, proprio da non respirare, e a ricordo appunto di questo episodio mi sono fatto appunto il serologico, l'IgG, e dopo due giorni mi hanno dato i risultati, dove sono praticamente risultato borderline, quindi il 50% sono stato a contatto, il 50% no. Mi avevano detto di ripetere di provare dopo una settimana circa a ripetere il serologico. Non l'ho fatto anche sotto consiglio del medico di base, perché si attivava. È rimasto sospeso in sostanza, non rido, ben inteso, non voglio mancare di rispetto nei confronti delle persone. Capisce, però. Ecco, nessuno mi ha dato obiettivamente nessun consiglio sul da fare. Proviamo a chiedere qualcosa al professor Pregliasco. Che succede in queste situazioni? Allora, ci sono situazioni come quella dell'ascoltatore che sono appunto risultati borderline, quindi non confermati, perché un margine di errore sia di falsi positivi che di falsi negativi nei test per il coronavirus, ma per la glicemia, per il colesterolo, per altri virus, è un fatto purtroppo ben conosciuto. Quindi ogni test, una singola determinazione può avere dei risultati incerti. Quindi davvero la necessità, a mio avviso, è quella di ripetere il test per poter avere una conferma, visto che si tratta di una malattia che viene ricostruita a lungo tempo, davvero la positività dovrebbe esserci. Quindi, Antonio, ha sentito? Sì, ho sentito benissimo. E allora segua. Volevo anche chiedere molto brevemente, perché sì, brevemente, ma molto, grazie. Cioè, se dovesse essere positivo al 100%, quindi è di obbligo fare il tampone, giusto professore? È una necessità complementare per confermare che la malattia sia finita nella parte, diciamo, in cui è contagiosa. Quindi in tutti i sierologici ripetuti comunque è bene fare questo tampone per ribadire, per esempio, come potrebbe essere nel suo caso, appunto, una malattia pregressa, e questo un segno, solo una stimmata della pregressa infezione, e speriamo, e questo dobbiamo ancora un po' scoprirlo, un segno anche di protezione nel tempo da un'eventuale reinfezione. Allora, grazie al professor Fabrizio Pregliasco, grazie per essere intervenuto in Effetto Notte Estate, grazie ad Antonio. Abbiamo Maria Luisa, molto brevemente, che ci vuol dire? Ah, sì, no, chiedo scusa. Allora, c'è stato un fraintendimento sull'ascoltatrice, che in realtà non esiste. Ritorniamo dal sottosegretario Zampa. Ho letto di un piano straordinario da 700-800 milioni. C'è? Non c'è più. Allora, evidentemente in questa fase abbiamo avuto qualche problema telefonico e qualche equivoco. No, c'è di nuovo. Sottosegretario Zampa, c'è ora? Sì. Ah, e allora evidentemente siamo in una fase, diciamo, critica sotto il profilo delle comunicazioni. Mi scuso anche con gli ascoltatori. Dicevo, c'è un piano da 700, a volte leggo 700, a volte leggo 800 milioni, brevemente, per implementare, diciamo, il sistema sanitario, rifornire di risorse il sistema sanitario? Esattamente, noi stiamo lavorando a un piano da 20 miliardi per la sanità, non da 700 milioni. Noi pensiamo che la sanità italiana abbia bisogno di circa 20 miliardi di euro per essere davvero messa nelle condizioni di correre, cioè di innovarsi, di essere più efficiente. Sì, ho letto la dichiarazione appunto dell'altro sottosegretario Sileri, che parlava di 700 milioni per misure per il personale contro il precariato, e quindi sostanzialmente per rafforzare anche la medicina sul territorio. Grazie Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte, ci scusiamo per qualche disguido telefonico, grazie, buona serata. Bene, andata lì. Ah, ci siamo, ci siamo. Diciamo abbiamo un po' di latenza nei collegamenti stasera, evidentemente al telefono. Grazie, chiudiamo questo capitolo e parliamo di cronaca, parliamo di una vicenda che oggi è tornata alla ribalta. Torniamo però indietro nel tempo per raccontarla. Era la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, la discoteca Lanterna Azzurra. Un gruppo di ragazzi, tutti residenti nel modenese, lì non per divertirsi ma per rubare, per spadroneggiare. E per farlo si erano portati lo spray al peperoncino, a un certo punto sono entrati in azione, si è scatenato il panico, nella calca hanno perso la vita 5 adolescenti e una madre di 39 anni, ad un anno e mezzo dai fatti, oggi la sentenza. Maria Luisa Pezzali, buonasera. Sì, buonasera Andrea, un saluto agli ascoltatori. Sì, oggi si è chiuso il processo di primo grado per la strage di Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni e 4 mesi per gli imputati, 6 giovani della bassa modenese, poco più che ventenni, della cosiddetta banda dello spray, che appunto tra il 7 e l'8 dicembre 2018 causarono la strage nella discoteca. Lo ricordavi tu, 5 adolescenti e una mamma di 39 anni morirono nella calca a carico degli imputati, che sono stati tutti condannati, sono stati riconosciuti tutti i capi di imputazione, quindi omicidio preteritorio intenzionale, rapina, furto e lesioni, tranne però l'associazione a delinquere. Ecco perché le condanne in realtà sono sensibilmente inferiori rispetto alle richieste dell'accusa, che pur tenendo conto della riduzione di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato, perché il processo si è svolto con il rito abbreviato, andavano queste richieste dei PM dai 16 ai 18 anni. Il fuggi-fuggi di quella sera culminò con il cedimento di una balaustra, Andrea, una balaustra che si trovava all'esterno, esatto, per mesi sono circolati i video in rete, questa balaustra si trovava all'esterno dell'unica uscita di sicurezza attiva nel locale, lo ricordiamo, doveva esibirsi Sfera e Basta, era un locale privo delle misure di sicurezza necessarie, affollato oltre la capienza limite, furono venduti molti più biglietti del consentito. E infatti sulla carenza di sicurezza del locale, che era classificato come magazzino agricolo, è in corso un processo parallelo che vede imputate altre 17 persone, tra cui i proprietari, gestori del locale e componenti della commissione di vigilanza per gli spettacoli. Andrea, grazie Maria Luisa Pezzali, hai ricostruito i fatti, ci hai chiaramente aggiornato sulla notizia di oggi, che era appunto la sentenza. Paolo Curi, buonasera. Pronto? Eccoci, sì, buonasera Paolo Curi. Buonasera, salve. Ecco, lei quella sera ha perso la moglie Eleonora, era in discoteca, sì, con la figlia. Mi ricorda quella sera, sì, dove era lei in quel momento? Io presente con loro è una sera che è stata, che rimarrà sempre nella mia memoria purtroppo. Ecco, lei in quel momento accompagnato nostra figlia in questa serata, che poi non pensavo neanche fosse una serata in discoteca, quando abbiamo comprato un biglietto per internet, che cominciava alle 9:30, non si è il concerto, invece non c'era nessun concerto, e siamo trovati dentro una discoteca sovraffollata, fatiscente e rischiosissima. Voi avete accompagnato vostra figlia perché non vi convinceva tanto il fatto di lasciarla sola? No, perché pensavo, io portavo mia figlia ogni anno a un concerto, altre volte pubblicizzavano questo evento come concerto, io ho comprato un biglietto e stavo lì, sì, dopo pensavo che a mezzanotte potesse iniziare la serata in discoteca, mia figlia era piccola, non voleva neanche andare da sola, capito? Era, certo, con noi e, ecco, volevamo, e poi, un concerto, ecco, insieme. Il momento, diciamo così, tragico a un certo punto, come lo ricorda? Si è sentita una forte fitta nella gola, si bruciava, poi c'è stato il parapiglia, io mi sono salvato perché ero 10 metri avanti, 3-4 metri avanti mia moglie e mia figlia, e ero tra i primi, quindi sono stato spinto fuori dalla marea, non avendo nessuno davanti ho defluito velocemente, mentre invece purtroppo mia moglie, che era un pochino più indietro, nel tentativo di salvare la figlia, facendogli scudo con il corpo, non è riuscito a salvarsi. Ha chiaramente saputo della sentenza, come la commenta? La sentenza, io forse per me non sono mai abbastanza gli anni di carcere che devono infliggere a queste persone, perché cioè, a me non moglie non me l'ha ridato nessuno e sono rimasto con quattro figli che hanno perso la mamma e quindi non c'è, per me non bastava neanche ergastolo, però oggettivamente ci può anche stare come anni, come seguendo, i giudici devono seguire la legge più o meno poteva dare questi, come anni massimi erano questi, potevano dar di più o non di più l'associazione a delinquere, che comunque l'associazione a delinquere non è facile da dimostrare, magari in questo caso ci poteva anche essere perché questi erano dei delinquenti organizzati, però non, è una cosa che non è facile, non è che basta che 5-6 persone fanno un reato, quindi è venuto a mancare solamente quello del capo di imputazioni massimi che erano stati dati dal PM. Ecco, ma qualcuno dei familiari di questi ragazzi si è messo in contatto con lei in questo anno e mezzo? Noi ci sentiamo, i figli delle vittime, abbiamo un gruppo. No, io dico, intanto... non dico, mi riferisco ai scusi, familiari tanti, di questi ragazzi che no, sono stati condannati. No, neanche anche lì, io ero presente al processo, si vedeva proprio... Non erano dei ragazzi. No, ma dico i familiari, di questi familiari ragazzi. Nessuno, assolutamente. Né cioè, loro, quindi né questo familiari. Anno e mezzo nessuno ha così manifestato. No. Non so quale sentimento più, si può manifestare, però. Stessi, anche al processo vedevi quasi si giravano, cioè tanto veniva che noi un po' delle vittime guardavi un po' con un po' di odio verso queste persone, cioè loro non è che avevano una faccia rimessa, anzi ti riguardavano molto malamente, cioè quindi erano proprio. Secondo me non davano l'idea di ragazzi che erano pentiti per quello che avevano fatto. Gli avvocati dicono questo? No, io con i miei occhi ho visto, cioè ero presente al processo, quindi li ho visti, loro erano presenti, io ero presente guardandoli, capito? Vedevi che non erano persone, cioè non davano almeno l'impressione, a nessuno di noi, parenti delle vittime, ci ha dato questa impressione. Paolo Curi, la ringrazio molto per la sua testimonianza, non è stato semplice, la ringrazio per aver aderito al nostro invito, grazie, un abbraccio a tutta la vostra famiglia, ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo con Effetto Notte Star. Effetto Notte Estate. Allora, alle 20 mancano pochi secondi, riprendiamo il racconto con le notizie del giorno. Chiaramente abbiamo raccontato in apertura quello che è accaduto al Senato con la vicenda Open Arms e chiaramente torneremo a parlarne in questa fascia con la collega del Sole 24 Ore che a breve si collegherà appunto con i nostri studi, Emilia Patta. E allora li rileggiamo in qualche modo le altre notizie. Continua la salita dei contagi da coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati, 386, ieri erano stati 289, le vittime sono 3, ieri 6, i tamponi effettuati sono stati poco meno di 62.000. 40 anni fa le stragi del volo Bologna-Palermo, inabissandosi al largo di Ustica il 27 giugno 1980 con 81 vittime, della stazione di Bologna il successivo 2 agosto dove persero la vita 85 persone con 200 feriti. Il Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Bologna alla commemorazione con i familiari delle vittime, dolore, ricordo, verità, le parole del Capo dello Stato. Donald Trump suggerisce di rinviare le presidenziali previste per il 3 novembre a causa dell'emergenza Covid. Su Twitter ha scritto: con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente della storia. Duro affondo del suo predecessore Barack Obama, che dice temere Trump faccia, dice di temere che Trump farà di tutto per escludere dalle urne il maggior numero di elettori. La borsa piazza affari in affanno dopo lo stop al ribasso di Eni e Generali a seguito dei conti semestrali. L'indice FTSE MIB segna un calo del 3,79% con lo spread in risalita a 153 punti. proroga del blocco dei licenziamenti al 31 dicembre, ma non nei casi di cessazione di attività di impresa e di fallimento. Lo prevede una bozza del decreto legge agosto. Altre misure previste: l'azzeramento per 6 mesi di contributi previdenziali, con l'esclusione di quelli dovuti all'INAIL, per i datori di lavoro che assumeranno un lavoratore subordinato a tempo indeterminato entro il 31 dicembre, ed estensione per 9 settimane della cassa integrazione Covid, che diventa però selettiva ed onerosa. Lo slittamento dell'inizio del campionato di Serie A, per ora previsto il 12 settembre, è una ipotesi che esiste, così dicono al Lega Calcio. Quindi c'è anche incertezza sulla ripresa del campionato. Alle 20.02 e 30 secondi Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore, collegata con noi. Buonasera. Buonasera. Allora Sara, con te un aggiornamento sulla vicenda Fontana, Camici, oggi che giornata è stata sotto questo profilo? Ma allora, diciamo, si confermano i due piani che si stanno intersecando fra loro, quello giudiziario e quello politico. Dal punto di vista giudiziario, diciamo che si è appreso il contenuto del decreto di perquisizione di ricordo il cognato di Fontana, proprietario dell'azienda che avrebbe fornito i camici, e da lì sarebbero emerse dei particolari che possono essere interessanti per la ricostruzione giudiziaria, appunto, ovvero il fatto che il 5 giugno fossero stati bloccati dalla società di acquisto della regione Lombardia i camici che dovevano essere appunto acquistati, ma che di fronte al conflitto di interesse lo avrebbero già bloccato. Questo potrebbe in una ricostruzione anche stare a significare che il presidente Fontana, che aveva detto di non saperne nulla, di non essersi occupato della vicenda, in realtà aveva chiara la questione e glielo avessero comunque riferito, lui stesso avrebbe fatto bloccare alla sua centrale di acquisti la fornitura. Ricordo, la fornitura fu fatta soltanto parzialmente dei 70.000 camici che dovevano essere dati per 500.000 euro circa dalla regione, poi ne sono stati forniti soltanto 50.000 e i 25.000 restanti Dini cercò di venderli altrove. Quindi diciamo un pasticcio che secondo gli inquirenti potrebbe configurare il reato di frode in forniture pubbliche, secondo la difesa è un po' un tentativo di superare, di mettere un po' un tampone a una svista. Chiaramente però questa vicenda non ha soltanto un risvolto giudiziario, che poi potrebbe anche avere dei chiarimenti, far valere un po' la buona fede, anche ricordiamolo, questa vicenda ha a che fare con le forniture di camici durante il periodo del Covid, non fu fatta nemmeno una gara e furono 5 le aziende oltre alla Dama. Quindi si può anche immaginare una ricostruzione di buona fede, ovviamente c'è anche quella in mala fede, ma anche quella in buona fede, quindi ancora non abbiamo, diciamo, un punto di svolta e chiaramente ci vorranno ulteriori approfondimenti. Diciamo che la questione, secondo me, più importante a questo punto è quella politica. Infatti stavo per arrivare qua, mi hai anticipato, è chiaro. Secondo me a questo punto, se anche il capo di imputazione in realtà è tecnicamente un'incolpazione, ancora non siamo ovviamente ancora in una sede processuale ma di indagine, è quella di frode in forniture pubbliche, quanto è emerso ovvero l'esistenza di un conto corrente in Svizzera tramite cui Fontana avrebbe tentato di fare un bonifico per compensare questa mancata fornitura che era stata trasformata in donazione, proprio per non far mettere in luce, per non dare evidenza al fatto che un'azienda di famiglia avrebbe potuto ricavarne dei vantaggi, un'azienda che peraltro non aveva completato, non aveva dichiarato in modo trasparente il conflitto di interesse. Ecco, questa compensazione che Salvini sottolinea, appunto, volendo sempre vedere, voglio dire, la buona fede, dicono ci rimette di tasca sua e ne andiamo pure contro, però è vero che è arrivata da un conto, lo ricordo, UBS in Svizzera, non è esattamente quello che ci aspettiamo da un amministratore pubblico, oltretutto è un conto ereditato su cui c'è stato una disclosure, uno scudo fiscale, quindi lo scudo fiscale è quello che serve a sanare da eventuali incolpazioni di evasione fiscale, quindi ha un conto corrente da cui c'è stata una sanatoria per l'evasione fiscale. Oltretutto questo conto corrente, che nel 2015 ha avuto questo scudo fiscale, dice Fontana, con soldi ereditati dai genitori. Dalla madre in particolare? In particolare dalla madre, con trust alle Bahamas, quindi anche l'ombra di un paradiso fiscale, poniamo pure lo avesse ereditato, lui non c'entra niente, però è un conto corrente che è rimasto comunque aperto e su cui abbiamo visto che secondo l'Agenzia delle Entrate sono entrati e usciti dei soldi. Nulla a che vedere con una acclarata evasione fiscale, ovviamente bisogna approfondire per vedere se è o non lo è, però si crea intorno al Presidente un'area di comunque di dubbio, di opacità. Che per un politico in questo momento chiaramente. Sì. E poi giustamente ricordiamolo che è vero, Fontana nel 2015 non era governatore, però era sindaco di Varese, lo è stato per 10 anni, ha avuto altri incarichi molto importanti, tra cui il Presidente dell'ANCI, ovvero dei comuni di tutta Italia, un ruolo molto delicato che ha anche una valenza ovviamente nazionale. Quindi è stato anche presidente del Consiglio della Regione, quindi anche il fatto di aver detto non ne sapevo nulla diventa comunque un'inopportunità, perché dichiarare il falso potrebbe essere comunque visto come un elemento grave per un politico che poi deve ovviamente presentarsi e parlare delle proprie maniere. E poi in un momento storico così delicato, sì, per la Lombardia, per il paese. Esattamente, ricordiamo che poi la Lombardia ha già avuto i suoi problemi anche dal punto di vista politico, con delle difficoltà, non è l'unica inchiesta adesso sulla regione Lombardia, questa riguarda direttamente il Presidente, però lo ricordo, ci sono delle inchieste molto importanti, anche se probabilmente come quella del lockdown mancato nella zona rossa di Bergamo, oppure quella delle RSA, non sono cose che potrebbero anche arrivare a qualcosa di un fatto penalmente rilevante, ma potrebbero descrivere un'inadeguatezza, un'inefficienza delle lentezze, diciamo, che potrebbero essere anche ricostruite in modo storico, non per forza in modo giudiziario, però molto pesanti. Poi esiste il problema dei test sierologici, su cui sta indagando sia la procura di Pavia che la procura. Sì, una mezza dozzina di filoni, mi pare, no? Se li mettiamo tutti, sì, insieme. Sì, esattamente. Diciamo, io ne ho raccolti appunto 5, secondo me, i più importanti. Questo che abbiamo elencato di Camici, quello dei test sierologici di Assorin, anche qui scelta in modo esclusivo e poi con un rapporto diretto con il Policlinico San Matteo, contro cui c'è stato un ricorso di un'azienda concorrente a cui Star ha dato ragione. Ora questa vicenda è sotto indagine a Pavia ma anche a Milano. Poi lo ricordo, c'è un approfondimento sulle spese dell'ospedale degli ospedali dei padiglioni della ex Fiera. Probabilmente qui non è detto che si vada incontro a nulla di rilevante. Un po' più debole questo, certo. Un po', certo, più debole perché nasce da un esposto, però è vero che bisognerà fare degli approfondimenti per vedere se non ci sono state delle spese e delle consulenze comunque inadeguate. Ora però questa vicenda di Camici appunto è quella che vede Fontana indagato, ma al tempo stesso vede anche una inopportunità politica particolarmente grave per il Presidente. E questo indubbiamente è l'elemento di maggiore difficoltà, l'elemento di maggiore difficoltà per Fontana. Grazie, perdonami se ti interrompo, incalza il tempo a nostra disposizione. Grazie a Sara Monaci, un'altra collega commentatrice politica del Sole 24 Ore, in linea con noi, Emilia Patta, buonasera. Buonasera. Allora, con te faccio il punto sulla notizia del giorno, cioè che il Senato ha mandato a processo Matteo Salvini, oltretutto per la seconda volta in pochi mesi, 149 sì, 141 contrari, sostanzialmente tutto come previsto, no? Sì, sì, tutto come previsto, perché nessuno, insomma, degli addetti ai lavori aveva creduto davvero al bluff di Renzi, no? Che fino all'ultimo ha mantenuto la riserva su come avrebbe votato Italia Viva. Sappiamo che il partito di Renzi in Senato è decisivo, no? Ci sono 17-18 senatori decisivi. In realtà appunto questa arma puntata di Renzi era tenuta nelle ultime ore soprattutto per risolvere la questione dei presidenti di commissione, no? Parallela, infatti poi nella notte si è risolta con l'elezione di Marattin, del renziano Marattin, alla Camera. Questo per dire che spesso le partite sono sono mischiate, ma certo Renzi non poteva fare uno strappo così grosso, insomma, con la maggioranza giallorossa e salvare Salvini. Quindi è andato tutto come previsto, i voti anche, insomma, sono un po' meno di quelli che normalmente ci sono, i voti di fiducia, perché il Senato qualcuno era assente. Siamo alla fine di luglio. Siamo ormai alla fine di luglio. Il voto importante era quello di ieri sullo scostamento, poi molti si sono cominciati a partire, a dire la verità. Salvini non l'ha presa bene, anche se lui dice che avete fatto un regalo. No? Secondo te è un regalo? No, secondo me non è un regalo. Chiaramente Salvini un po' ci gioca perché sa che sul tema dell'immigrazione è quello che gli ha dato un enorme consenso, no? Durante il periodo del governo giallo-verde. Però è anche vero che un tema che peraltro sta riemergendo, tra sbarchi, sanitaria, molto, emergenza e via dicendo. E tra l'altro divide la maggioranza, insomma, non sanno bene che linea prende. Lo stesso PD, abbandonata la linea Minniti, non sa bene, no, che linea prendere. I 5 Stelle sentono il richiamo di Salvini, è un tema molto sentito. Tuttavia Salvini sa che non è più solo su questo che lui costruirà il suo futuro politico, quindi ormai è un'arma un pochino spuntata, anche perché nel frattempo abbiamo un'emergenza economica enorme, le persone sono prese con problemi più che direttamente più li riguardano, quindi lui in realtà è preoccupato perché per colpa o in virtù, a seconda di come la si pensa, della legge Severino che fu approvata durante il governo Monti, si rischia perché se dovesse essere solo la condanna in primo grado, lui teoricamente non può essere ricandidabile, quindi insomma si tratta pur sempre del leader del più grande partito italiano, insomma ricorda un po' le vicende che coinvolsero Berlusconi, no? All'epoca in cui Forza Italia aveva molto successo. Non a caso, ecco, Berlusconi, che nelle ultime settimane più di una volta si è distinto da Salvini avvicinandosi alla maggioranza sui temi europei, no? Ad esempio il MES o su altre cose, su questo è stato molto duro, questo è un uso politico della giustizia, no? Chiaramente ha rievocato anche la sua immagine. Quindi non lo so, insomma, bisogna vedere come andrà, se ci si arriverà, però a mio avviso obiettivamente il tema di rivedere la legge Severino, insomma, prevedendo quantomeno un'interdizione in caso di condanna definitiva, cioè non da oggi. Ricordiamo il caso Penati, no, del PD, per l'inchiesta Lombardia, che poi fu condannato in primo grado e poi assolto addirittura una carriera politica rovinata, e quella vicenda ricordo che ebbe anche non poca influenza nel far perdere o non vincere le elezioni al PD di Bersani nel 2013, quindi sono cose molto grosse. Ecco, una democrazia matura non può, secondo me, permettersi di non far partecipare alle elezioni il leader del più grande partito, almeno al momento, italiano. Quindi forse, insomma, infatti su questi temi Renzi, pur annunciando il suo sì al processo, ha invitato un po' a fare una riflessione, una riforma della giustizia, ecco, quantomeno prevedere, ecco, o l'appello o addirittura la condanna definitiva. Interdire una carriera politica dopo il primo grado forse un po' eccessivo, ma erano anni diversi, quelli quasi 10 anni fa. Beh, certamente, no? Certamente. Era un clima questo è un diverso. È un tema centrale. Quindi, per la democrazia. Quello certo, che preoccupa certo. Salvini è questo. E poi comunque mediaticamente non è mai bello un leader sotto processo. Salvini, che è intelligente, lo sa bene. Grazie Emilia Patta, Sole 24 Ore, grazie per questo quadro che ci hai tratteggiato sulla notizia più importante del giorno. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo con l'ultima parte di Effetto Notte Estate. Effetto Notte Estate. Come sempre ormai, peraltro solo da qualche giorno, ma ormai la tradizione è avviata, dedichiamo l'ultima parte di Effetto Notte Estate, gli ultimi 10 minuti, allo sport. Questa volta l'angolo del calcio, un angolo delle storie. Sui giornali di oggi, ricordo Corriere della Sera, ma l'ho visto anche su altre testate, in prima pagina c'è una foto di un bel ragazzo, è un neolaureato, è un calciatore, e qui c'è una mezza notizia, nel senso che è un calciatore che si laurea, certamente un po' di curiosità può destarla. Si chiama Alessandro Spanò, ha 26 anni, è di Giussano, in provincia di Monza Brianza, è capitano della Reggiana, squadra neopromossa in Serie B. Appunto, questa, diciamo così, è una mezza notizia. La notizia è che questo ragazzo, una volta discussa la tesi e conseguita la laurea in economia, ha deciso di mollare il calcio per approfondire gli studi, avendo vinto appunto una borsa di studi all'estero. Quindi addio calcio, all'apice della carriera, con la prospettiva magari di avvicinarsi alla Serie A, ha salutato tutti, ha salutato chiaramente il mondo del calcio, ha detto: faccio lo studente e proseguo in questa mia passione. Luca Quintavalli, presidente della Reggiana, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito e no, grazie della vostra diretta. E grazie a lei chiaramente per essere qui con noi. E poi, con un po' di emozione, sento la voce di una mia figurina dell'infanzia, Lamberto Boranga, ex portiere di parecchie squadre. Buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio della telefonata. Allora, siete molto gentili voi, semmai appunto ad aderire alle nostre proposte. Allora, poi chiaramente approfondisco un attimino il caso Boranga per quelli, diciamo, non completamente giovani come me, per una certa generazione è stato un mito. Luca Quintavalli, come l'ha presa la notizia che il suo capitano, dopo la promozione in Serie B e quindi in un momento, diciamo, assolutamente positivo per l'ambiente, ha deciso di salutarvi? Lo dica con sincerità. Sì, contento, sì, per lui? Considerando sì quanto è positivo per lui il percorso di crescita professionale e quante prospettive ha e avrebbe avuto anche nel calcio, ma che ha da uomo e da professionista, non posso che dire che sono contento per lui, perché ha fatto una scelta da uomo e ha utilizzato il calcio non come fine ma come tramite per diventare quello che poi l'ha portato a fare una scelta così importante. Credo che come me la veda tutta la società, sicuramente, e tutta una città intera, perché da un Alessandro Spanò qualcosa di questa caratura ce la potevamo aspettare. Lamberto Boranga, allora, lei è medico con due lauree e lei all'epoca, parliamo degli anni 70, non era comune che un calciatore si laureasse, è così, me lo conferma? Due lauree? Ce n'era qualcuno che già... Eravate pochi. L'Inter, eravate pochi, però lei era un personaggio. Poi c'era i portieri di solito sono la parte più intellettuale del calcio, quelli che ragionano di più, perché fanno un mestiere in cui l'istinto, la previsione, l'intuizione sono fondamentali, quindi il carattere del portiere è un carattere speciale. Allora, cosa pensa della... Ma lui ha fatto bene, perché... Adesso vi spiego, anch'io sarà un momento che avrei pensato di lasciare la Reggiana, la Reggiana, allora anch'io. Ah, giusto, lei vedo dal 70 al 73 ha giocato nella Reggiana, evidentemente stimola 70, quella maglia, gli studi. È la maglia che adesso è nuova e io dico al presidente della Reggiana, gli mando un messaggio, la maglia del portiere. Che ha battuto in finale nel playoff il Bari, non dico la maglia sua, ma la maglia me la deve dare. Attenzione Quintavalli, perché io secondo me ora gli chiede anche un ingaggio, perché Lamberto Boranga, che no, non c'ho problemi. No, lei ha visto che lei continua a giocare, diciamo che non è più giovanissimo. Ancora, posso dire la sua età? Posso dire la sua età? Come vuole, io tanto mi sono cinquantenne perché non voglio invecchiare. Diciamo cinquantenne abbondante, senza l'età, secondo me l'età biologica è quella. Sì, però io la vedo nelle immagini che circolano, la vedo che ancora lei svetta verso la traversa e respinge in corner. Sì, vabbè, io sono ancora uno attivo, diciamo sportivo attivo, faccio atletica, poi salto con l'asta, salto in lungo, salto in alto. Quindi io sono sempre in condizioni buone. Certo, Quintavalli, quindi ha bisogno di un terzo portiere, magari, no? Sì, sto a casa. Voglio chiedere a Lamberto Boranga, sì, ringraziandolo per quello che ha fatto per la Reggiana, la sua taglia, se devo tenergli una maglia. Ma io una media, Presidente, ma ci tengo sentimentalmente, affettivamente, non penso che voglio la maglia perché... Ha un significato. Noi siamo contenti, di avervi messo in contatto. Siamo molto contenti. Allora, Quintavalli, ci metteremo in contatto, Presidente. Quinta Valle, siete tornati. L'Italia che è ritornata finalmente dove doveva tornare. Ecco, stavo arrivando qua. Quinta Valle, siete tornati in Serie B, avete fatto due salti di categoria in due anni, se non leggo male, no? Sì. Abbiamo, dopo il ripescaggio avvenuto dalla B alla C, successivamente al fallimento del 2018, siamo riusciti a completare un campionato, pur successivamente al lockdown, esprimendo in campo il valore della squadra, che ha dimostrato in corso d'anno sicuramente un livello tecnico secondo a nessuno. Siamo stati coerenti nel voler ottenere questo risultato, che è un risultato non solo di una società o di una squadra, ma lo confermo e lo ribadisco, di una città intera che si è stretta intorno a questo club, che aveva bisogno di esprimere quello che in 20 anni non si è riusciti a fare, per tanti motivi che non sto a elencare, perché vabbè. Comunque, ecco qua, il Spanò è stato, non dico ora decisivo, ma importante in questa impresa. No, decisivo, perché lui ha segnato un gol in semifinale che non ci avrebbe consentito di passare pure i playoff. Mannaggia, Voranga non ne perde una di partita. No, io la Reggiana seguo. Proprio, lei è un po' tifoso della Reggiana. Reggio Emilia, sì, io sono rinato a Reggio Emilia, devo dire la verità. Presidente, veramente, io sono stato talmente contento, felice di ritrovare una squadra che, tra l'altro, io sto a Perugia, probabilmente ci rivedremo a Perugia, probabilmente, sperando che il Perugia si salvi, però sì. Fondamentalmente è rimasta sempre nel mio spirito, perché io gli spiego un po', stavo facendo quello che faceva Spanò, avevo trovato il posto all'Istituto di Igiene e Profilassi, dopo la laurea in biologia, mi davano 450 fino a lire al mese, ne prendevo, non dico 10 volte più, però con la Reggiana certo. Tenevo famiglia, io che devo fare? Ecco Boranga, ma si sentiva un po' particolare, calciatore, medico, no, la guardavano in maniera un po' particolare. Per abbandonarlo, lo studio era la moglie e il calcio probabilmente era l'amante, diciamo questo similitudine, no? Cioè calcio lo ami, se lo ami veramente come l'amavo io, perché non giocavo più per lo più per divertimento, non per soldi, però fondamentalmente qualche soldino l'ha fatto, no? Non lo potevo abbandonare, no? Certo. Quindi ho scelto di mi iscrivere, poi mi sono iscritto a medicina, mi sono laureato in medicina e ho fatto, a quel punto lì dico, che faccio, smetto? No, continuo, ho giocato altri 5-6 anni, 10 anni tra i professionisti. Ecco, una battuta, Boranga, sono più bravi i portieri di oggi o quelli di ieri? O proprio una battuta? Vabbè, sono due portieri completamente diversi. Anche però eravate un po' più marpioni, un po' più personaggi una volta, no? Morfologicamente, cioè sono alti, giocano meglio con i piedi, però la tecnica ce l'aveva Zoffa, Albertosi, questi se la sono dimenticati. E poi un po' matti, un po' istrionici, tanti personaggi. Sì, sono un po' diversi, però indubbiamente sono dei portieri. Quello della Reggiana mi sembra che ha avuto un incidente grave, adesso si è ripreso. Ma proprio sta proprio tutto, facciamo gli auguri a questo portiere. Scusate, vi devo salutare, sono contento che così ci sarà questa maglia che girerà nel nome di Radio 24 tra l'Emilia Romagna e l'Umbria. Grazie Lamberto Boranga, una figurina della nostra generazione. La Reggiana la verrò a prendere con tranquillità, va bene? Ok, grazie Presidente Quinta Valli, grazie. Grazie a voi, buona grazie. Serata, 20:27, finisce qui stasera Effetto Notte Estate, in regia Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo e Alessandro Schirano. Grazie per l'attenzione ad Andrea Ferro, noi ci risentiamo domani 18:30.